Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, continua a crescere la presenza degli stranieri in Italia e in particolare dei musulmani, provenienti peraltro da diverse regioni del mondo. Non ho nulla contro gli stranieri, in un'ottica di accoglienza e integrazione. Ma proprio l'integrazione mi sembra difficile, per il carattere molto spesso integralista e chiuso al dialogo di molti tra quanti sono fedeli all'Islam. Non sarebbe il caso di porre regole e limiti chiedendo loro espressamente l'accettazione delle nostre regole, prima di dare loro permessi di soggiorno o addirittura la cittadinanza? Giovanni. Caro Giovanni, l'obiettivo dell'integrazione è anche quello che gran parte degli immigrati vuole e chiede. Un'integrazione che nasca dal rispetto reciproco, che riconosca le diversità, ma che sia anche rispetto delle regole e delle leggi del paese che li accoglie. È vero che il tema religioso è uno dei punti più delicati e importanti. Anche perché l'appartenenza religiosa comporta anche diverse visioni sul ruolo della politica e sugli equilibri sociali. Una riflessione che mi è sembrata interessante è quella svolta dal patriarca di Venezia, Angelo Scola, una personalità molto attenta ai rapporti interreligiosi. In Occidente, ha scritto il cardinale, i cristiani sono passati attraverso il cesaropapismo e la teocrazia, ma oggi sanno giocarsi e documentare la rilevanza pubblica della loro fede nel pieno rispetto delle società laiche plurali in cui vivono. I musulmani, conclude Scola, possono trarre profitto da questa esperienza, così come noi possiamo imparare da loro su altri terreni. In pratica, grande rispetto per le rispettive esperienze e per i rispettivi valori, ma all'interno di una società in cui prevalga il dialogo e la testimonianza, e non l'affermazione integralista di una supremazia. Cara Radio 24, in Italia si parla solo di calcio. Si investe solo nel calcio e si vede solo del calcio. Dovremmo essere almeno come gli All Blacks nel rugby, cioè dei dominatori. Invece, siamo solo italiani. Alberto. Cara Radio 24, se come dice Lippi, è vero che le uniche due volte in cui gli avversari si sono fatti pericolosi hanno segnato, allora la percentuale di gol evitati dalla nostra difesa è allo 0%. Potremmo quindi giocare senza portiere e con un attaccante in più, sperando di segnare almeno un gol per merito nostro in questo mondiale. Andrea. Cara Radio 24, quelli che oggi si stupiscono di quanto faccia schifo l'Italia in questi mondiali non ricordano quanto l'Italia abbia fatto schifo nei mondiali passati, per non parlare degli europei e delle varie fasi di qualificazione a queste manifestazioni. Le partite degli ultimi 30 anni in cui la nostra nazionale ha espresso un bel gioco sono pochissime, per quel che ricordo. La mitologica fase finale del mondiale 1982, la semifinale con la Bulgaria del 94 e la finale persa agli europei del 2000 contro la Francia. Quindi niente di preoccupante. Passeremo il turno come secondi del girone e troveremo l'Olanda agli ottavi. Gli olandesi ci daranno l'ormai consueta lezione di calcio, ma per le solite imponderabili ragioni che rendono il calcio uno sport superiore a tutti gli altri, il turno lo passeremo noi. A quel punto il Brasile ci farà a pezzi, perché anche le solite imponderabili ragioni che rendono il calcio uno sport superiore a tutti gli altri hanno un limite. Alessandro. È assurdo che la RAI non trasmetta tutte le partite del Mondiale. Quello che mi chiedo è questo. Se invece di fare trasmissioni con 30 ospiti, 10 a Roma, 10 in Sudafrica e 10 chissà dove, tutti i giornalisti che ripetono sempre le stesse cose, anziché pagare la presenza a tutta questa gente, non avrebbero potuto inviare 3 giornalisti e acquistare i diritti per le partite? Forse avrebbero ottenuto più share. Lasciamo perdere poi i giornalisti e gli ospiti. I vari Mazzocchi, che si impappina 9 volte su 10 e inspiegabilmente segue sempre tutti i più grandi eventi sportivi. Bisteccone Galeazzi, che non riesce più a parlare, e la presentatrice, Linda Santaguida, che sembra un tirante del ponte di Brooklyn da quanto è rifatta. Insomma, tante persone si lamentano di dover fare l'abbonamento a Sky, ma io mi lamento di come viene gestita la RAI. Per i soldi che gli italiani pagano dovremmo avere una RAI che fa vedere tutto o quasi, e con le tecnologie più avanzate, e soprattutto gratuitamente. Ci ritroviamo a dover fare l'abbonamento a Sky per vedere qualcosa di diverso da Una notte per Padre Pio. Quindi a tutti coloro che vedono nelle pay TV un'usurpazione dei diritti del cittadino, di coloro Protestate. Protestate con chi ha ridotto la RAI a questo circo di vecchi buffoni, strapagati per far male un mestiere che molti giovani farebbero meglio. Come avviene, appunto, su Sky. Francesco. Cara Radio 24, sento spesso, per radio o sui giornali, commenti di manica larga sulla Lega. È stupido ritenerla pericolosa per l'unità del paese. Oppure, al massimo, si tratta di folklore. Eppure, domenica 20 giugno a Pontida, si sono ripetuti gli stessi slogan, le stesse parole d'ordine, Padania libera, secessionismo, eccetera, anche se forse un po' più attenuati. Chiedo, la stupidità è nella Lega o in chi vede nella Lega un pericolo? Può darsi che la stupidità sia in entrambi. In ogni caso, comunque la si veda, cosa pensare di quei capipopolo che, pur partendo da critiche ampiamente condivisibili, prospettano soluzioni spesso improponibili, che cavalcano istinti egoistici, seminando divisione, rancore, se non addirittura odio. Il ministro Roberto Calderoli recentemente avrebbe affermato «prima il federalismo, poi parleremo di unità». A mio giudizio è come se tra coniugi si dicesse «prima parliamo di divorzio, poi di matrimonio». Certo che la figura maggiormente negativa la fanno gli ex camerati, che pur di occupare qualche pezzo di poltrona governativa siedono a fianco di persone che negano ad ogni occasione i valori nazionali. Minimizzano, enunciano qualche flebile distinguo, ma nulla più. Salvo proporre una ridicola leggina che regoli l'uso dell'attuale inno nazionale. Quanta ipocrisia! Che sia tutta una farsa? Augusto. Caro direttore, lei ricorderà che durante i governi Prodi una delle polemiche più forti riguardava il gran numero di partiti coalizzati e il conseguente proliferare di ministri e sottosegretari. Tutto per soddisfare le esigenze di poltrone dei vari cespugli all'ombra dell'ulivo. Ora però di partiti al governo ufficialmente ce ne sono due, PDL e Lega, ma di ministri e sottosegretari ce ne sono svariati e soprattutto c'è una tendenza a incrementarli di tanto in tanto. Visto che questo dato non l'ho trovato su nessun giornale, mi sa dire lei di quanti ministri e sottosegretari è composto l'attuale governo, confrontandolo con quelli di Prodi che destavano tante polemiche? Emanuele. A proposito di Spatuzza, non sono mai stato democristiano, ma questo non mi ha mai impedito di pensare che il senatore Andreotti sia stato volutamente, malvagiamente martirizzato per 20 anni dai suoi avversari politici, che oggi come allora usano pseudo pentiti per infangare l'onore di persone che hanno sempre servito l'Italia con devozione e senso del dovere, al solo scopo di colpire con mezzi impropri avversari politici o economici. Mi meraviglia il fatto che ci siano ancora oggi magistrati che dimostrano di avere più fiducia nelle parole interessate di personaggi senza scrupoli, millantatori senza ritegno, assassini di ogni fatta piuttosto che ad onesti servitori dello Stato come ufficiali dell'arma, commissari di pubblica sicurezza, gente per bene, insomma. Dubitare questi ultimi di collusione con la mafia equivarrebbe a pensare che siano i PM a suggerire ai pentiti di dire le cavolate che dicono. Mi pare che sia l'ora di finirla. Adesso si sta esagerando. Basta. Non se ne può più. Mario. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.